Summertime di Elisabetta Fiorito. Buon pomeriggio con le note di Gioacchino Rossini. Noi andiamo a Rossini Opera Festival, dove questa sera c'è l'ultima rappresentazione di Il signor Bruschino, ad interpretare il signor Bruschino Roberto De Candia. Buon pomeriggio. Salve, salve, buon pomeriggio a tutti. Una farsa giocosa quella che scrive Rossini, in cui succede di tutto e di più. Beh sì, poi in questo allestimento, in questo nuovo allestimento del Rossini per il Festival ancora di più. È un allestimento per firma che è firmato dal collettivo Teatro Sotterraneo di Firenze. Sono 5 giovani registi, trentenni, e quindi diciamo hanno cercato di reinterpretare la musica di Rossini con gli occhi, con uno sguardo più dei giovani di oggi. Come siete vestiti? Con i vestiti dell'Ottocento, d'inizio Ottocento, oppure i costumi sono attuali? Bisogna fare un piccolo preambolo. Lo spettacolo si suppone viene ambientato all'interno di un parco a tema, come può essere, non so, Disney World piuttosto che Universal World. E si chiama Rossini Land. In questo Rossini Land praticamente ci sono diversi angoli, l'angolo del barbiere di Siviglia, il Guillaume Tell piuttosto che altri, e noi non siamo altro che gli impiegati dell'attrazione che si chiama il signor Bruschino, per cui arriviamo in scena con abiti contemporanei, insomma anche un po' così, un po' come si suol dire, un po' sbracati, un po' come se andassimo a lavorare di prima mattina. E poi dopo, prima che arrivi il pubblico, ci vestiamo in scena con gli abiti invece un po' più tradizionali, anche se sono fatti in un materiale molto sgargiante. Abbiamo delle parrucche di un materiale plastico, un po' ricorda un po' quei look, un po' delle fotografie di La Chapelle, un pochino così, un po' eccessivi, un po' molto colorati, un po' pop. È una trama assolutamente complicata, no? In cui lei interpreta Bruschino padre, che è un baritono, sì, che generalmente Rossini associa però ai personaggi negativi, insomma non solo Rossini, ma nella maggior parte dei casi è sempre associato a un personaggio negativo. In questo caso? No, in questo caso no, in questo caso qui non è altro che il padre di quello che poi è Bruschino figlio, si chiama nell'opera, che è praticamente promesso sposo a Sofia, il soprano protagonista. Però Sofia, ovviamente, questo è un matrimonio combinato, quello che loro hanno preparato. Sofia è innamorata invece del tenore, Florville, il quale, sapendo che Bruschino figlio è un poco di buono, insomma uno che va in giro a gozzovigliare, a perdere il tempo a spendere i soldi del padre, non trova di meglio che trova l'idea di sostituirsi a Bruschino figlio. A quel punto lì si innesca tutta una serie di situazioni equivoche. Ma alla fine Rossini però è grande nelle opere buffe, oppure, visto che il maestro Muti sta riscoprendo il Rossini invece più tragico, lei pensa che è sottovalutato? No, guardi, io trovo che Rossini sia grande come tutti gli autori, più o meno, in tutte le sue esplicazioni, nel senso che sicuramente quelle che sono le opere più direttamente più famose, anche più conosciute dal pubblico, come il Barbiere di Siviglia, la Cenerentola, l'Italia in Algeri, sono opere buffe. Il grandissimo repertorio di Rossini è, diciamo, ormai entrato anche a far parte dei repertori dei grandi teatri di tutto il mondo, per cui diciamo mi riesce veramente difficile riuscire a fare una distinzione fra l'uno e l'altro, tanto più che poi diciamo per gli addetti ai lavori è un po' più conosciuta questa cosa qui, ma diciamo anche per il grande pubblico che ascolta le opere di Rossini. Rossini era solito far uso dei cosiddetti autoimprestiti. Lui prendeva della musica magari da un'opera buffa e la metteva in un'opera seria, e a seconda del contesto in cui la metteva, la stessa identica musica prendeva tutto un altro respiro, per cui è veramente difficile, anche se dal punto di vista strettamente musicale, riuscire a distinguere fra le due anime di questo grandissimo compositore. Sì, infatti questa cosa del mutuare da altre opere, no? Dello stesso autore, cioè lui si scopiazzava, potremmo dire così. Assolutamente. È fantastico. Ci sono delle opere, diciamo, generalmente vanno a coppie, delle opere serie che hanno la stessa sinfonia identica di opere buffe. E curiosamente, guardi, ascoltare la stessa musica, come le dicevo prima, in opere che hanno un contesto, diciamo, drammaturgico completamente diverso, suona anche diverso all'orecchio. È un miracolo assolutamente inspiegabile con la ragione. Quali sono le opere che lei ha interpretato di Rossini e qual è il personaggio, essendo poi un baritono, che ama di più? Guardi, diciamo, la risposta è molto facile, nel senso che facendo moltissime recite durante gli anni di Barbiere di Siviglia, cantando il personaggio di Figaro, è sicuramente un ruolo a cui sono, il ruolo a cui sono più affezionato, il ruolo che mi dà più soddisfazione. Ma il mio primo ruolo rossiniano, quello a cui sono più affezionato in assoluto, è poi il Dandini della Cenerentola, che è, diciamo, all'interno della storia, il finto principe che si sostituisce al principe vero perché lui possa studiare l'animo delle sue pretendenti. E invece, rispetto agli altri autori, è un autore che privilegia, oppure voi poi alla fine siete chiamati, no? Perché avete un imprinting magari d'opera buffa e quindi è difficile magari andare a fare altri ruoli, a coprire altri ruoli? Ma guardi, la bellezza del nostro mestiere è quella di riuscire a rivestire diversi panni. Io dico sempre che spesso e volentieri il nostro mestiere ci aiuta anche a vivere meglio la nostra vita reale. Certe volte certe produzioni possono essere delle paragonate a delle sedute di psicoterapia, nel senso che per un cantante come me, che per tantissimi anni ha frequentato solamente il repertorio più brillante, più buffo, adesso un po' con gli anni che passano, un po' con l'esperienza e anche con la maturazione vocale, siccome si affacciano dei ruoli un po' più seri, qualche volta anche quelli danno grande soddisfazione perché permettono di scoprire e scavare dentro parti della propria personalità che uno magari ha tenuto in disparte fino ad allora. Allora, il signor Bruschino, abbiamo sentito il signor Bruschino padre, sì. Con Roberto De Candia, grazie infinite. Grazie questa sera a Rossini Opera teatro, grazie. Festival di Pesaro, grazie. Con le sonorità di Goran Bregovic noi andiamo in Umbria, l'Umbria Folk Festival, che prende in via stasera rassegna di musica e cultura anche gastronomica, come ci racconta Lucia Gismondi, vicepresidente dell'associazione Umbria Folk Festival. Buon pomeriggio Lucia. Grazie, buon pomeriggio a voi. Siamo tutti in fibrillazione. Perché apre Goran Bregovic e quindi siete tutti quanti nervosi? Come andrà? Benissimo. Incrociando le dita speriamo di sì. Comunque Goran è un grande e non credo che ci sia necessario dire più di tanto, perché si presenta da solo, dopo noi ci sarà la notte della Taranta, è maestro concertatore. Diciamo che la sua musica è una musica di origine, come sanno tutti oramai, balcanica, ma tra l'altro un'esperienza interessante, perché questa proposta che farà Orvieto ha a che fare con l'incontro tra Goran Bregovic e la sua Wedding and Funeral Band, il Go-Go Bordello e il Gypsy King, per cui sicuramente si tratterà di una serata trascinante e nessuno potrà stare fermo, ecco. Poi il festival prosegue, no? Anche con altri artisti, so che avete De Gregorio, Mannarino, Beppe Barra, che sentiremo tra poco. Come si articola il tutto? Vi rincontrate ogni sera in piazza ad Orvieto? Sì, i nomi da te citati sono i big. Poi in realtà abbiamo tante altre attività, perché pensa che il festival inizia ogni giorno alle ore 12 per terminare all'1:30 della notte successiva. E quindi una serie di appuntamenti. Certamente i nomi che hai citato, da Mannarino al mitico Peppe Barra, sono Francesco De Gregori, Ambrogio Sparagna, diciamo sono i fiori all'occhiello, no? Perché effettivamente sono persone e gruppi che rappresentano l'Italia e l'italianità. tanto quanto Peppe Barra rappresenta la napoletanità, che oramai è come un marchio d'occa, no? Nel senso che forse in Italia, ma soprattutto fuori, all'estero, è un fiore all'occhiello, è veramente un doc sotto certi punti di vista, cioè sotto il punto di vista delle tradizioni musicali e popolari italiane. Poi avete Francesco De Gregori con Ambrogio Sparagna per la Taranta, no? De Gregori sta esplorando durante quest'estate tutta una serie di sonorità che noi non ci saremmo mai aspettato da quello che era il principe dei cantautori. Esatto, e questa cosa devo dire che sta prendendo un successo particolare, tanto da essere pubblicizzata a 360 gradi in Italia, anche dal TG1 e così via, perché abbiamo la possibilità di vedere un De Gregori assolutamente inedito, che esce proprio dai canoni, dai criteri della sua musica cantautorale, come hai detto giustamente tu, per entrare invece in un mondo che è quello di Ambrogio Sparagna, che è secondo me il più grande ricercatore di musiche e tradizioni popolari, e accompagnarlo. E quindi questa cosa mi incuriosisce proprio personalmente, no? Per vedere come un cantautore che ha avuto un suo modo di interpretare la musica, i testi, i contenuti, trasformi in qualche modo, no? Elabori altri contenuti, entri in un mondo che comunque è diverso dal suo. Lucia, un attimo, perché abbiamo parlato di contaminazioni, abbiamo parlato praticamente di musica cantata da un personaggio per un altro. Ascoltiamo un attimo questa canzone. Tutto mi chiama una bocca di rosa, sentite che mossa che schiocca di rosa. Tutto mi chiama una bocca di rosa, per me l'amore è prima cosa. Quando scendete in da piazza, tu vai sino vicino a me. Subito la voce corretta sicura, non è una mona che clausù. Ciò se che amore fa pensiero, che ho fatto professione. Bocca di rosa nel nome del lato, lo faccio solo per devozione. Diamo il benvenuto a Summertime a Beppe Barra e abbiamo sentito la sua versione di Bocca di Rosa di Fabrizio De André, un omaggio che tu hai fatto proprio quando è scomparso Fabrizio De André. Buon pomeriggio a tutti. Prima che andasse via Fabrizio, mi chiamò una mattina e mi chiese di scegliere tra le sue più belle interpretazioni una canzone da tradurre in dialetto, in lingua napoletana, per il suo disco Canti Randaggi, dove ognuno dei gruppi più importanti d'Europa faceva un omaggio ad André. E io scelsi appunto Bocca di Rosa e il testo me lo ha tradotto Vincenzo Salemme. Per cui così nasce questo primo rapporto, che poi dopo ho conosciuto bene Dorighezzi, ci siamo visti, mi ha chiesto anche di tradurre Don Raffè, di interpretarla, insomma, e c'è stato un lungo sodalizio con Dorighezzi dopo che lui è andato via. Allora, Beppe, che cosa invece proporrai all'Umbria Folk Festival quest'estate, che il tuo concerto sarà venerdì 24 agosto? Le mie proposte sono sempre quelle all'insegna del divertimento, della cultura, del momento di grande affabulazione. Mi divertirò a giocare come sempre col pubblico. Con la canzone napoletana? Diciamo con la cultura napoletana più che canzone. Con quello che è più delle cose che abbiamo sempre tenuto un po' lontane dal palcoscenico, dei pezzi inediti, per esempio delle cose di Giacomo, e anche degli omaggi che ho fatto a Bruno Lauzi, per esempio un omaggio a Bruno Lauzi che è un po' stato un po' dimenticato, Bruno Lauzi come cantautore. Senti Beppe, ma non è che magari come Eduardo vorresti interpretare la Tempesta di Shakespeare in napoletano? Ci stai pensando? Perché ti manca solo quello. No, io l'anno scorso ho fatto Shakespeare, ho fatto la Commedia degli Equivoci di William Shakespeare, l'ho fatta al Teatro Romano di Verona e l'ho reinterpretato un po' a modo mio, la Commedia degli Equivoci, basandomi proprio appunto sulla gestualità napoletana, sul modo di comunicare alla napoletana, come ho fatto con Molière, col Borghese Gentiluomo. Quindi praticamente Napoli è la tua corda, ma è vero che sei nata a Roma però? Sì, nessuno lo sa. Nessuno lo sa, adesso però lo sanno quasi tutti, per cui non ne faccio più mistero, ma comunque è un stato perché mamma era incinta e mi partorì quasi al Teatro Valle, perché mamma e papà facevano questo spettacolo al Teatro Valle durante il periodo di Roma città aperta. Nacqui a Roma per caso e poi sono rimasto a Roma perché non si poteva più ripartire da Roma e sono rimasto a Roma per altri 2 anni da bambino. Ho capito, quindi c'è un po'... Allora abbiamo scoperto questa cosa, che l'interprete assoluto della cultura napoletana in Italia è nato a Roma, perché comunque siamo una nazione. Grazie Beppe anche di aver giocato con noi. Ricordiamo che questa sera si apre l'Umbria Folk Festival ad Orvieto e ricordiamo anche un appuntamento che vogliamo segnalare, il Folk Trekking di domani 22 agosto, che praticamente una passeggiata attorno alla rupe di Orvieto con musica itinerante dell'Orchestra Giovanile di Musica Popolare Umbria Folk Festival, diretta da Sparagna. Grazie a Lucia Gismondi, vicepresidente dell'associazione Umbria Folk Festival, e a Beppe Barra, ricordiamo, in concerto venerdì 24 agosto. Quello che sentiamo è un brano che si intitola proprio L'amor messo da parte, di Paolo Damiani, che è direttore artistico e musicista del Roccella Jazz Festival, che si è aperto il 18 e finirà il 25 agosto in vari comuni, tra cui Roccella Ionica, Reggio Calabria, Monasterace, Locri, insomma moltissime le iniziative. Diamo il benvenuto quindi a Paolo Damiani. Buon pomeriggio. Salve a tutti. Allora, cosa succede in Calabria durante questi giorni? Cose turche, voi dite? Cose turche, esattamente. Questo è un sottotitolo. Noi amiamo dare in qualche modo un filo rosso al pubblico. Quest'anno Cose turche allude da un lato alla forte presenza di musicisti turchi. Ci sono anche, diciamo, di area orientale. Ci sono anche musicisti dell'isola di Creta. E poi c'è anche questo discorso rispetto a tutte le peripezie che sono state attraversate da chi si occupa del festival per mandare in porto questa 32esima edizione: i tagli nei finanziamenti, l'assenza di sponsor, problemi che ovviamente non riguardano solo noi ma un po' tutto lo stato della cultura in Italia. E però per fortuna siamo riusciti a mandare in porto, almeno per il momento, questa travagliata edizione. Allora, partiamo da stasera 21 agosto, l'appuntamento a Roccella Ionica con ritratti sonori, poi suono di donna, sono vari concerti in varie località? Sì, noi cerchiamo in qualche modo anche di valorizzare la bellezza dei luoghi. L'altro ieri, per esempio, a Locri abbiamo sentito il fantastico quartetto di Thor Gustafsson e il quintetto di Giovanni Falzone. È stato un momento di grande bellezza anche perché si è svolto nell'area archeologica di Locri. Quindi uno spazio in cui l'attenzione, la qualità dell'ascolto è veramente massima. Poi che cosa succede invece? So, appunto, tutta la settimana va avanti, no? Sì, tutta la settimana va avanti fino al sabato. Diciamo che ci sono alcune iniziative più importanti, tra virgolette, allo spazio dell'anfiteatro al castello. Domani ci sarà il gruppo di John Hassel con Enrico Rava e poi il quintetto di Tom Harrell. Uzir Guner, il grande suonatore di Ney, il flauto di canna tipico della cultura ottomana e orientale in generale, il 23, e il gruppo di Francesco Berzatti. Io suonerò con il mio gruppo il 24 e poi ci sarà Nils Petter Mollweiler e poi chiudiamo in grande stile con l'orchestra Todos il 25, un progetto pensato da Mario Tronco, che noi ricordiamo per aver creato l'orchestra di Piazza Vittorio. Mario si è inventato un'iniziativa analoga ma con tutti i musicisti che vivono in Portogallo, a Lisbona. Ecco, che tipo di musica si fa? È solo jazz oppure appunto come ci No, spiegava? assolutamente. Questo, diciamo che l'identità principale del festival è proprio quello di lavorare un po' ai margini del jazz, quindi cercare anche di approfondire, di esplorare quelle che sono musiche che si muovono vicino al jazz, ma che non sono sicuramente definibili come jazz americano. Invece lei ha parlato del suo gruppo, a questo punto la domanda è d'obbligo, voi suonerete venerdì, che tipo di musica fate? Ma diciamo, sono tutti pezzi miei arrangiati da un eccellente arrangiatore, compositore e sassofonista che si chiama Cristiano Arcelli. È un lavoro ispirato a un libro di Orhan Pamuk, lo scrittore turco appunto che ha vinto il Nobel nel 2006. Questo libro è del 2009 e si chiama Il Museo dell'Innocenza. E quindi abbiamo anche utilizzato dei testi di Pamuk su musiche mie. Ricordiamo allora il Roccella Jazz Festival, rumori mediterranei, cose turche, come ci ha raccontato il direttore artistico Paolo Damiani. Si svolge fino al 25 agosto tra Roccella Ionica, Reggio Calabria, Monasterace e altri comuni. Grazie. Grazie a voi, a presto. Accidenti, benzi! Hai messo paura! L'ho ammazzato io per fare la foto. Senti, mettili il cappello. Che? Il cappello, mettilo lì, alla gente piace vedere il cappello del morto. Sono un fotografo freelance, se non sono in strada per mezzanotte tutto il mondo mi passa avanti. Sbaglio, i criminali dicono che si fanno fotografare solo da lei. Non lavoro su commissione, ma ho fiuto per le notizie. Ehi, la faccia finita. Benzi, levati di Ma torno. sei impazzito? Dicono che là dentro c'è un tizio con un'accetta ficcata in testa. Grazie a Dio vi ho potuto dare l'estrema unzione in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E basta così. E per chi è a Roma, quindi per chi è in città, non è vero che le città si svuotano, non è vero che non c'è nessuno. Comunque, anche se siamo in pochi a Roma, a Milano, a Roma si può andare alla mini arena del Pigneto, dove fino al 26 agosto c'è una rassegna di cinema e giornalismo in sei prove d'autore. Abbiamo sentito il film Occhio Indiscreto, il primo film proiettato della rassegna. Ad organizzare tutto Patrizia Salvatori, presidente dell'Alphaville Cine Club. Buon pomeriggio, Patrizia. Buon pomeriggio a tutti voi di Radio 24. Allora, perché avete scelto appunto questa rassegna dedicata poi al giornalismo, no? L'Occhio Indiscreto è un film interpretato da Gio Pesci, no? E parla di cosa esattamente? Dunque, innanzitutto abbiamo scelto, grazie anche per questa opportunità, di farci raccontare così, insomma, le nostre ricerche dal punto di vista delle rassegne che fanno proprio capo all'SG Cine Club, insomma, no? Quel che noi siamo da anni ormai. Abbiamo pensato alla rassegna sul cinema e il giornalismo perché ci sembrava che il giornalismo ad Alphaville fosse stato affrontato nel corso degli anni precedenti, non con dovizia di particolari, ed anche perché francamente pensiamo che il giornalismo nel nostro paese, per quanto vituperato, per quanto sempre sotto alla berlina di vari commenti, eccetera, tuttavia è fondante anche per, diciamo, chi appunto legge, chi appunto ascolta e soprattutto chi poi si fa un'idea e se la fa attraverso internet piuttosto che le pagine dei giornali. E qui da noi in Italia, insomma, i giornali, anche se poi alla fine sono sempre in difficoltà, tuttavia fanno comunque opinione, fanno anche tendenza. Poi sbatti il mostro in prima pagina di Marco Bellocchio, prima pagina che secondo me è una commedia incredibile. È ancora bella dopo tanti anni, no? Con Jack Lemmon e Walter Matthau. Jack Lemmon che si deve sposare, ricordiamo, è il film di Billy Wilder, Jack Lemmon che si deve sposare e invece Walter Matthau che è il direttore di giornale, no? E lo richiama sempre. Ambientato negli anni 20, sì, è Proprio. bellissimo. Poi State of Play. Abbiamo scelto State of Play, infatti, anche perché diciamo, ha origine questo film da una produzione televisiva. Ci piaceva anche un po' portare questa nostra ricerca sul rapporto tra cinema e giornalismo anche, insomma, in un passato più recente, e questo è un passato davvero più recente in cui appunto una cosa che capita molto spesso, insomma, di avere successo in televisione con un seriale televisivo e di proporlo poi al grande pubblico come film. State of Play lo è, un film di McDonald's appunto, ed è più recente, così come Fortapace, per dire, no? di Marco Risi, che è un film del 2009, è un film importante sulla morte del giornalista Siani, il giornalista del Mattino, e quindi anche questo è uno spaccato che parla, ci racconta attraverso il giornalismo, tuttavia una serie di difficoltà dal punto di vista socio-politico-culturale del nostro paese. No, ricordiamo poi che nel film, no, di Fortapàsce, Siani è un giovane collaboratore all'inizio, no? Lui muore praticamente, quasi, forse era praticante, insomma, quindi era sì, un praticante del Mattino, è morto a 26 anni, cioè, al quindi povero. La cosa incredibile di questo giornalista è che lui, essendo un giovane, aveva il coraggio di scrivere quello che gli altri non avevano il coraggio di scrivere, e in tutto questo eccessivo, grandissimo, appunto, quasi veramente, poi per essere così ragazzo, così preciso, maniacale nel riportare, nell'andare a cercare la notizia le notizie in particolare sui fatti del terremoto in Irpinia del 1980, e su questo che poi appunto purtroppo è caduto, il film rende naturalmente in maniera in fiction una storia vera, non è un documentario, ma tuttavia lo è dal punto di vista appunto della realtà oggettiva che è successa in quel periodo e che appunto ci piaceva ricordare, perché ripeto è una rassegna questa appunto del Cineclub sul giornalismo, dove ci sono anche commedie come per esempio 10 in amore, però tuttavia è anche una voglia insomma di far notare, di ricordare come attraverso il giornalismo sono passate tante verità del nostro paese e purtroppo anche tante morti nel nostro paese ovviamente. Allora ricordiamo Alphaville Cineclub, mini arena del Pigneto, siamo a Roma in via Luigi Filippo De Magistris, da oggi 21 agosto al 26 alle ore 21. Noi ringraziamo quindi Patrizia Salvatori, presidente di Alphaville Cineclub. Grazie. Grazie anche a voi, grazie a Radio 24, grazie, a presto. A presto. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Antonella Migliaccio in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a summertime@radio24.it. Una buona serata da Elisabetta Fiorito.